Sì, io infatti rispetto a questa cosa mi viene, mentre parlava Gabriele, sul discorso biologico. Noi ci teniamo a fare questa, a specificare o comunque a raccontare questa cosa qua. Spesso si parla di biologico e per noi vuol dire tante cose, ma vuol dire anche niente. Proprio per l'aspetto che diceva Gabriele. Tralascio il discorso delle certificazioni, che comunque, come tutte le certificazioni, vogliono anche lì dire poco, perché comunque chi certifica poi è lo stesso persona. Cioè, insomma, questa roba non la voglio. Non voglio entrare in questa discussione qua, che secondo me pian piano viene anche. È di dominio comune che comunque la certificazione non significa nulla. Ma un'altra cosa, cioè il biologico è un modo di produzione, non vuol dire che il prodotto è biologico. Perché, per fare un esempio, in questo territorio, no, dove appunto marchiati con delle lumachine sui cartelli mentre entriamo in questo paese qua, se uno fa biologico, ma poi l'amministrazione permette di fare un inceneritore. Se uno fa biologico e poi di fianco al suo campo passa una superstrada a quattro corsie, può fare, fa un modo di produzione biologico, ma il prodotto non è più biologico. Passiamo la parola a qualcuno, rifletteteci su queste cose qua, perché è il modo di ragionare degli amministratori, no? Anche siamo in 2015 Expo. E gli agricoltori vengono tirati per la giacchetta per dirci quanto Milano deve nutrire il pianeta. Poi chiunque abita a Milano sa benissimo che ammazza per pochi biscotti Milano, quindi col cavolo che vuole nutrire il pianeta. Milano vuole fare il business e usa, vedi, mi boicottano pure. Usa gli agricoltori per fare altri progetti infrastrutturali. Marco,